sotto il sole che brucia la pelle. Corriamo veloce tra ombre e cicale, la sabbia scotta sotto le stelle. L'estate ci chiama per la nostra morale. Sotto il sole del Grass canta la vita, Valeria anima ci guida, ci invita. Mani in alto, il cielo si agita, nel cuore un ritmo che mai si evita. Limonata fresca è un gioco di carte, sorrisi che scoppiano come granate. Un sogno si allunga, non vuole la parte, che un tempo che scappa ma resta legato. Sotto il sole del Grass canta la vita, Valeria anima ci guida, ci invita. Mani in alto, il cielo si agita, nel cuore un ritmo che mai si evita. Limonata fresca, un gioco di carte, sorrisi che scoppiano come granate. Un sogno si allunga, non vuole la parte, di un tempo che scappa ma resta legato. Sotto il sole del Grass canta la vita, Valeria anima ci guida, ci invita. Mani in alto, il cielo si agita, nel cuore un ritmo che mai si evita. Corda in do, si suona e si spera, una canzone che riempie la sera. La voce si alza, il vento la porta, finché l'estate non chiude la porta. Corda in do, si suona e si spera, una canzone che riempie la sera. La voce si alza, il vento la porta, finché l'estate non chiude la porta.